Il gastronauta di Davide Paolini. Sine qua non, cari gastronauti. Bene, oggi mi va proprio di iniziare con questo vecchio segnale che ha segnato tanti anni di questa trasmissione, che poi ho messo un po' in soffitta, ma ora lo ritiro fuori. Anche perché oggi mi faranno compagnia tanti amici che con me danno vita alla guida dei ristoranti del Sole 24 Ore. Sono un po' coloro appunto che segnalano i locali in giro per l'Italia. Sono coloro che scoprono anche dei posti completamente nuovi. E oggi proprio per questo voglio con loro farvi un servizio, voi che siete già in vacanza o chi sta andando in vacanza. Agosto è iniziato e quindi vi daremo delle segnalazioni straordinarie. Bene, iniziamo da Helmut Failoni. Buongiorno Helmut. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccolo allora, qua. Caro Helmut, tu in quale zona così stai arando, in quale zona particolare? So che tu hai delle predilezioni anche fuori Italia, che possiamo dare anche queste segnalazioni? Sì, guarda, io di posti del cuore, segreti e non noti, meno noti, come tutti, ovviamente ne ho molti, però mi piacerebbe cominciare da uno dei luoghi delle mie origini materne. Cioè, mia madre era greca e la prima volta che io sono andato in Grecia era il 1969. Ecco, lo dico non tanto per raccontare le mie vicende personali, peraltro di scarso interesse, ma solo per dire che insomma che la Grecia la conosco e la frequento da una quarantina d'anni, quindi è abbastanza difficile che io possa entusiasmarmi facilmente di fronte a un moussaka o a un piatto di yemistà, che sono le verdure ripiene di riso. Ecco, in posti magici in tutti questi anni, gastronomicamente parlando, mi è ovviamente capitato più volte di andare, ma c'è un posto che io mi porto nel cuore, ed è nell'isola di Tilos. Tilos è un'isola nel Dodecaneso del sud, e la taverna di cui vi vorrei parlare non ha nemmeno un nome. I greci dicono molto semplicemente Pames ton Antoni, ovvero andiamo da Antonio, che è l'unica taverna nella piccola baia di Sant'Antonio nella parte nord dell'isola. Qui, come dire, mangi davanti al mare con i pescherecci ormeggiati a pochi metri davanti a te che dondolano sul mare, sopra di te ci sono le tamerici dalle quali pendono fili di lampadine che svolazzano al vento, tutto attorno ti gironzolano gatti, bambini, i tavoli sono zoppi, le sedie scomode, ecco, e poi ci sono avventori locali, ecco, questo mettiamo subito i puntini sulle i, questo è un posto dove non ci capiti per caso, ci devi voler andare, i locali turistici, quelli con i menù plastificati, le foto dei piatti, quelli orridi, li trovi nella parte nord dell'isola, e invece da quest'altra parte è la Grecia vera, quella che potrebbe essere, come dire, rinchiusa in un fermo immagine di un film, che so, di Theo Angelopoulos. Mi stai facendo rabbia, io che sono qui in radio, che sto sudando. Elmo, ti volevo chiedere, appunto, hai fatto una bellissima descrizione, praticamente chi ti ha ascoltato sicuramente che in Grecia avrebbe voglia di andare. Qualche piatto? Allora, qui fanno tutto in famiglia, il formaggio viene dalle loro bestie, la carne pure, e la cucina greca, ricordiamolo, è un po' come quella sarda, cioè quindi soprattutto di carne, ma c'è anche il pesce lo pesca lui, il signor Adonis, il pane lo fanno loro, l'olio è loro, le uova sono delle loro galline. Ecco, l'ultima volta che ci sono stato a giugno ho riprovato una semplicissima omelette di cipolla e formaggio. Ecco, un mio amico che è un mangiatore professionista come me si è alzato e senza chiedere niente è andato ad abbracciare la Beh, devo dire che signora. I piatti più semplici, questi, sono della semplicità. Sono i più difficili, perché sicuramente non sono così facili come può sembrare, e quando riescono sono davvero straordinari. No, e poi segnalo ancora qui l'insalata, anche questa banale, ma quando la verdura viene dal tuo orto, la servi con foglie di capperi e il timo che cresce spontaneo in tutta l'isola, insomma è un godimento infinito. Il capretto da forno è d'applauso. Ecco, e per quanto riguarda la cucina di mare, preparano un'insalata di palamito pescato da loro, un po' come fosse un'insalata russa, e poi altri due piatti da non perdere di mare, i gamberetti, di cui questo mare abbonda, che vengono proprio fritti al volo, meglio proprio passati una trentina di secondi padella, te li mangi come fossero veramente dei popcorn, e poi ne vuoi ancora e ancora. E poi il grande piatto, che non si trova sempre, è assolutamente da assaggiare, è la cicala di mare, che da quelle parti si chiama caravida, che in Toscana si chiama batti batti, diciamo, esatto, subito, sì, perché batte batte quando se batte, batte. La prendi con le mani, ed questa è una delle cose più buone che il mare Helmut, ora potrebbe offrire. Ti lascio con la Grecia, perché ora andiamo in Calabria. Grazie Helmut, e chi volesse andare in Grecia può ridarci l'indirizzo. Allora, beh, è Tilos, nella sì? Baia di Sant'Antonio, c'è un'unica taverna, parte nord dell'isola. Bene, grazie a Helmut Failoni, ora andiamo nella bellissima Calabria, andiamo da un grande talent scout. Buongiorno a Gianfranco Manfredi. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Allora, qual è la grande novità? Hai una novità, un posto segreto, un posto che pochi conoscono? Diamolo ai nostri radioascoltatori. Io veramente me lo sono sempre tenuto per me questo indirizzo. Perché l'osteria della memoria, l'osteria perduta che ancora esiste, anzi resiste tenacemente, è nata 45 anni fa, quando non esisteva nemmeno il termine agriturismo, e quest'anno appunto compie 45 anni. Si chiama Le Muraglie ed è una classica trattoria di campagna, gestita da una famiglia, sono la famiglia Roperti, Armando, la moglie Matilde Carino e i figli Daniele e Massimiliano, che si avvicendano ognuno con i propri compiti a gestire questa piacevolissima trattoria che d'estate ha un loggiato freschissimo, insomma anche ad agosto la sera bisogna portarsi un pullover perché affaccia su una valle col fiume molto fresca. D'inverno invece c'è il tepore della stufa a legna e tutto l'anno c'è l'acqua sorgiva che zampilla vicino alla casa, accanto all'edificio. E cosa quindi si mangia? Non ci sono bottiglie d'acqua minerale, tutto è prodotto da loro. Quindi gli animali da cortile che sono allevati in proprio, l'orto fornisce il resto, e ci sono i maiali ovviamente sono allevati da loro e soprattutto nutriti da loro, quindi non con mangimi ma con quello che avanza dalla cucina, insomma, come si usava una volta. È un piatto che ti ha colpito in particolar modo? È un piatto che mi ha colpito è il pollo alla cacciatora. Il mio preferito, devo venirci, mi ci devi portare, caro Gianfranco. Volentieri, molto volentieri. Con delle patate fritte che vengono ripassate nel sugo della cacciatora. Oh, santo cielo, tu mi parli di poesia in questo momento. Infatti il locale è poetico, ti ripeto, in una valle nascosta su un fiume. Il comune è Conflenti, che è un comune molto antico, che tra l'altro ha una illustre tradizione enogastronomica, perché insomma ci sono vigneti molto belli, curatissimi, ci sono tutti però vigneti di produzione casalinga, cioè nessuno in bottiglia, non ci sono etichette, insomma sono tutti vini di casa che poi qualcuno vende pure, ma insomma sono molto gelosi. Sono quei vini bastardi che io chiamo bastardi. Senti Gianfranco, visto che abbiamo parlato di vini bastardi, però dacci due chicche di vino calabrese, tu che sei un grande esperto di vino, per coloro che vanno in vacanza o che sono in vacanza in Calabria, un bianco e un rosso. Allora, il rosso propongo anche ai nostri radioascoltatori un calice di Cariglio, che è un rosso che io definisco polposo e sorridente, lo produce Lidia Matera a Montaltuffugo, in provincia di Cosenza, in un'azienda che si chiama Tenuta Terre Nobili, che lei ha ereditato dal padre, che sognava di costruire questa azienda, l'ha realizzata negli anni 60, però lei, che è diventata agronoma, ha studiato a Bologna e poi è ritornata in Calabria e l'ha gestita con tecniche moderne, con consulenti come Mario Ercolino, insomma una piccola azienda ma molto molto ben curata. E un bianco ti propongo un classico ormai dei vini bianchi dell'estate calabrese, che è il Critone di Librandi, due vitigni nordici. Ecco, questo lo conosco molto bene da tempo e devo dire che è una scelta molto molto giusta, anche perché c'è un rapporto qualità-prezzo davvero eccellente su questo vino. Io, guarda, io l'ho visto proprio ieri a 6 euro in un negozio, non in un supermercato, in un negozio a 6 euro ed è un best seller da sempre, ha avuto degli aggiustamenti nel tempo, oggi è un po' più leggero, 12 gradi e mezzo. e dimostra come i vitigni del nord, coltivati a sud con il sole tenere del sud, si esprimono in maniera molto diversa. Quello lì c'è Chardonnay e Sauvignon, ed è un bianco insomma che ormai credo che abbia compiuto i 25 anni è sempre molto fresco e giovane, fragrante. Bene, grazie a Gianfranco Manfredi, ci ha così descritto in maniera splendida questo posto in Calabria e anche dei vini calabresi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, continuiamo questo viaggio nell'Italia, ma siamo andati anche fuori, siamo andati anche in Grecia, di questi posti che vi vengono segnalati da il gruppo di collaboratori del gastronauta, quelli che danno vita alla guida dei ristoranti del Sole 24 Ore. Sono facce sconosciute, e oggi sentirete i nomi, ma poi scompariranno e da loro ci faremo dire appunto cosa hanno scoperto, quali sono i posti del cuore. E se qualcuno di voi è in macchina in questo momento, ma tanti saranno perché un sabato sarà un sabato di fuoco, io vi chiedo, fermatevi un secondo, prendete carta e penna, perché vi garantisco che queste segnalazioni sono molto ma molto interessanti. Ora andiamo da Amedeo Palazzi. Buongiorno Amedeo. Buongiorno Davide. Allora, cos'hai scoperto recentemente, così che da dare in pasto ai nostri radioascoltatori? Ma io vi racconto una storia interessante che è a baricentro perfetto tra Brescia, Mantova e Cremona, quindi in una zona ricca di grandi ristoranti, ci sono i famosi Pescatore, la Crepa e tanti altri. Vi parlo del Gran Caffè Liberty di Asola, che secondo me è il posto dell'estate 2012. Beh, devo dire che è bellissimo, tra l'altro, dal punto di vista architettonico, quindi. Sì, è un edificio del Novecento, finalmente ha una bella gestione da qualche anno di Gino in sala e della moglie Greta in cucina, con delle ragazze bravissime, si mangia pesce in maniera meravigliosa, cucinato con intelligenza, senza esagerazioni. Il posto è bello, il servizio è in una piazza meravigliosa anche questa, e il servizio è veramente una delle cose che fanno venire voglia di andare al ristorante. Quindi un posto sicuramente dove andare. Cos'è che si mangia di particolare? Medea, un piatto in particolare? Ma io consiglio di non scegliere, di non guardare neanche il menù e di chiedere a Gino che cosa ha comperato al mercato la mattina. Chiaramente il pesce è il piatto forte, ci sono delle linguine al nero, il riso al nero, come fanno alla griglia i frutti di mare, piuttosto che tanti pesci, anche i pesci dimenticati di cui tu, Davide, spesso ci ricordi l'esistenza e l'importanza. Senti, e la carta dei vini in quella zona lì? La carta dei vini è intelligentissima, perché questa tra Brescia, Mantova e Cremona, il vino è una religione, quindi tantissime bollicine francesi, italiane, Franciacorta sicuramente, e poi su bollicine ci sarebbe tanto da dire, come tu ci insegni, e anche dei meravigliosi che io adoro, Cremant, Rosé e Alsaziani, che veramente hanno un rapporto qualità-prezzo strepitoso. Beh, devo dire che la zona di cui tu ci hai parlato è veramente interessante, perché quasi tutte le carte dei vini hanno pagine e pagine sulle bollicine, soprattutto francesi, cioè in quella zona si beve alla grande e si beve soprattutto champagne. Quindi io credo che veramente sia forse la zona, come posso dire, più dedita allo champagne che c'è in Italia, molto più delle città, vero? Sicuramente così, anche molti Franciacorta, piccoli produttori, famosi grandi produttori, è una zona dove la bollicina comunque regna incontrastata, questo è fuori discussione. Bene, grazie ad Amedeo Palazzi ci ha così ha raccontato appunto, vuoi ripetere il posto e l'indirizzo? Ma il Gran Caffè Liberty di Asola è in piazza, quindi non si sbaglia. Bene, a presto, grazie. a presto. Bene, ora andiamo da Massimo Di Cinzio, un altro talent scout molto importante, che diciamo il suo regno è tra le Marche, l'Abruzzo e il Molise. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Allora Massimo, ci dai qualche chicca? Diamo ai nostri radioascoltatori qualche chicca? Dove poter andare? Guarda, io ho pensato un paio di posti. Il primo non sarà per molti, spero che non sarà più un segreto, ma è un luogo molto suggestivo, e sono i Trabocchi, le antiche strutture di pesca. Fantastico! Sono simili alle palafitte, che sono aperte da giugno a settembre, sulla costa dei Trabocchi appunto, in provincia di Chieti. ovviamente un tratto di costa dove non c'è molta spiaggia, ma c'è soprattutto roccia, e quindi tantissimi secoli fa hanno cominciato a costruire queste palafitte che erano strutture da pesca. Adesso sono diventati dei piccoli ristorantini dove si mangia molto bene, ce ne sono una decina, non in tutti si mangia, si riesce a mangiare la sera, però in molti di questi si mangia la sera, ce ne sono un paio particolarmente interessanti. Penso al trabocco di pesce, si chiama Pesce Palombo, e il trabocco a punta Cavalluccio, e sono tra Rocca San Giovanni e Fossa Cesi, appunto in provincia di Chieti, e si possono mangiare ovviamente le specialità marinare della cucina abruzzese, immagino il tortino di alici, il brodetto, la chitarrina con i frutti di mare, o con le appunto le acciughe, con lo sgombro, buonissimo, insomma il pescato, diciamo, locale di piccola pesca, portato appunto su queste strutture digestive. Io voglio fare una parentesi su questo. Io ho assistito veramente il famoso trabocco della famiglia Derì, quindi e devo dire che ho assistito alla pesca, sì. proprio diciamo dal vivo, e poi ho assaggiato queste specialità, e devo dire che i luoghi sono veramente meravigliosi. Vorrei ricordare che D'Annunzio dà una descrizione del trabocco che è straordinaria. Quando si arriva, uno si immagina quello che ha scritto il grande Vate D'Annunzio. Quindi sicuramente è un posto, come posso dire, anche emozionante. Massimo, tu sei anche un grande esperto di vino, e quindi dalle tue terre, cioè quelle dove tu frequenti, ci dai qualche chicca ai nostri radioascoltatori che magari in questo momento sono in movimento? Alcuni magari saranno tra l'Abruzzo, il Molise, le Marche. Guarda, assolutamente sì. Le Marche ovviamente sono la patria di uno dei miei vini preferiti, ma credo i miei preferiti da molti appassionati, che è il Verdicchio. Io però sceglierei il Verdicchio di montagna, quello di Matelica, dove il Verdicchio viene un po' più minerale, un po' più fresco, un po' più anche longevo, se vogliamo. Entrambe le selezioni, quello di Esi e quello di Matelica, sicuramente buone. Quello di Matelica forse, ecco, magari in questa estate molto, molto calda, così torrida, un filo di mineralità, un filo di freschezza in più, sicuramente piacevole. Per l'Abruzzo, beh, insomma, io penso all'altra passione, quella del Cerasuolo, è un rosato fresco da mangiare con la cucina anche di terra abruzzese, è sicuramente una scelta felicissima. Ecco, credo che il Cerasuolo, con il grande boom che c'è stato dei vini rosati, sì, abbia avuto una grande ripresa, anche se è completamente diverso dai rosati, però mi sembra che negli ultimi anni, ecco, sia stato molto più apprezzato questo vino particolare. Io voglio ricordare il Cerasuolo di un grande, così pure il Trebbiano di un grandissimo, che Valentini, la Cantina Valentini, ma ce ne sono tanti altri. Ci dai anche un nome di un produttore che non è Valentini? Lo do io, perché sicuramente io sono innamorato dei vini di Valentino. Insomma, come si può non esserlo? Io dico, molti produttori stanno seguendo una strada molto intelligente, quella di cominciare a fare vini finalmente come si facevano una volta, ricominciare a fare vini come una volta, quindi con selezioni molto accurate, con lieviti indigeni, quindi autoctoni, con non filtrazione dei vini. E devo dire, c'è una cantina nuova, nata qualche anno fa, si chiama Feudo Antico, è una cantina che nasce come costola di Tollo, di Cantina Tollo, quindi una cantina molto molto interessante, originale, fa un rosato da uve Montepulciano davvero straordinario. Bene, grazie a Massimo Di Cintio, a presto, voliamo in Puglia, da Antonella Millarte. Buongiorno Antonella. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, dal tuo cappello, cosa ci fai uscire di un locale molto particolare, magari anche poco conosciuto, Antonella? Io mi sono a lungo interrogata su questo quesito, perché la Puglia in realtà sono le Puglie, e ho scelto due piccole chicche, una verso l'Adriatico e una giù verso il capo nel Salento, quindi sono andata dai Trulli fino giù alle grotte. Perché lasciamo scegliere ai nostri ascoltatori. Bene. Chi ha voglia del fresco sicuramente può rifugiarsi all'Arco Madonna del Pozzo, nel cuore della Valle d'Itria, Trulli meravigliosi, restaurati con grande cura, una bellissima casa padronale, non manca una bella piscina dallo scorso anno, ma soprattutto sembra di essere un po' nella fattoria degli animali, perché questo è un punto di campagna amica, allevano animali di grande pregio, fanno formaggi spettacolari, hanno il loro vino, il loro olio, quindi dal bello al fresco fino al buono a tavola, per me è veramente un'emozione. Ogni volta che ci vado non ho voglia di andare via, sinceramente. Quindi per chi vuole un po' fuggire dalla ressa del mare estivo, credo che sia davvero un posto delizioso. Bene, e il secondo luogo? E l'altro posto, vogliamo, come dici tu, e andiamo giù, nel Salento, quasi verso il Capo di Leuca, e lì non riesco mai a fare a meno di Ciolo, questa insenatura di sabbia in una scogliera alta 40 metri, sembra quasi un miraggio, sopra c'è un ponte spettacolare, e poi grotte, tuffi, e a piedi si può arrivare a Gariano del Capo, in poco tempo, oppure ci si può fermare al ristorante L'Incanto, che l'incanto è davvero nelle parole, a tavola, ricci come se fosse pioggia, una pioggia di ricci. Non farmi venire fame. Fresco, vino rosato, appunto, ecco, non manca. Ecco, siamo ecco. Nella patria dei rosati, invece. Nella tappa precedente, nella patria del Fiano Minutolo, questo vitigno d'Agua Bianca ritrovato, scomparso. Quindi l'occasione per avere anche nel calice due Puglie davvero speciali. Mi dai il nome del vino, appunto, di un rosato che tu apprezzi in particolar modo? Ma sicuramente il Rosa del Golfo. Eh beh sì, è l'antesignano. Diciamo che si parla tanto di rosato e bisogna, diciamo, togliersi il cappello su questo vino, perché questo vino è stato il vero primo grande vino rosato, quindi sicuramente vale la pena sempre di assaggiarlo. E quindi resta imbattibile, ti devo dire, anche ora dell'ultimo concorso nazionale dei vini rosati. Però c'è una grande novità che potremmo segnalare ai nostri ascoltatori, che amano viaggiare con gusto. La Puglia ha ottenuto la prima e per ora unica DOCG del vino rosato in Italia, ma per gustarla bisogna andare un po' più su, bisogna andare verso il castello di Federico II, nella zona DOC Castel del Monte. Questa è una bella sorpresa, siamo sempre stati abituati al rosato da Negromaro, invece la DOCG è riuscita a conquistarla. Una bottiglia di rosato diversa, fatta col bombino nero, tradizione antichissima, però magari ecco meno nota. È un nome di un produttore? Ma io amo in maniera particolare una grande, celebre azienda, che è l'azienda Rivera, perché ha sempre saputo portare avanti con grande intelligenza questo mix fra il vino assolutamente pugliese, non disdegnando però uno sguardo ai mercati internazionali. Sicuramente l'azienda che ci ha portato sempre avanti nella tradizione e con grande attenzione. Ti dico una cosa, se si va a visitare questa casa vinicola, c'è l'unica vigna didattica di tutta la regione, cioè c'è uno spazio con tutti i vigneti autoctoni di Puglia. Bene. Gioia per i visitatori, per i bambini, per chi vuole conoscere. Grazie, grazie a Antonella Millarte, a presto, viva la Puglia! Il gastronauta. Ricominciamo questo bellissimo viaggio in Italia con questi miei amici gastronauti che appunto tutti assieme battono l'Italia, quindi, ma devo dire che ora ho in linea un gastronauta molto particolare, anche perché assieme abbiamo fatto un viaggio che è diventato, mi permetto di dirlo perché lo hanno detto in tanti, un bellissimo libro, che Il gastronauta in Veneto, e il coautore di questo libro è stato Giancarlo Saran. Buongiorno Giancarlo. Ciao Davide. Giancarlo Saran è sempre pieno e ricco di sorprese, e allora io mi rimetto subito a lui perché sono sicuro che ci fornirà ancora una volta veramente qualcosa di molto particolare che ha recentemente scoperto. È così Giancarlo? Sì, assolutamente. Quando faremo la seconda edizione del Gastronauta nel Veneto, inseriremo sicuramente questa bilancia da pesca che si chiama Adamare e si trova a Cortellazzo, qualche chilometro a est di Jesolo. E cos'è questa bilancia particolare? Ma è una cosa molto curiosa, vale a dire, è una struttura che si trova sul fiume Piave, a 200-300 metri dalla sua foce nell'Adriatico, e è una rete che è sostenuta che scorre lungo il letto della Piave ed è sostenuta da quattro piloni di 24 metri. Questa rete pesa circa 800 kg e viene sollevata quattro volte al giorno con un rito anche molto particolare e molto divertente da vedere. E chiaramente a fianco, quindi a metro zero, c'è una costruzione che è stata restaurata da Claudio Bertino, un imprenditore gastronauta pure lui, e lì dentro si fanno delle scoperte di gola ma anche di curiosità da gastronauti molto molto interessanti. E quali? Dicele, allora, tiriamo su questa. Allora, lì dentro il personaggio, intanto dobbiamo parlare di Ivo Righetto. Ivo Righetto è un giovane che nella vita ha avuto molti capitoli interessanti. Quando era ragazzino lui si immergeva a pieni polmoni sui fondali della laguna di Venezia e lì trovava degli astici. Ah, poi, addirittura, perché sì, sulla laguna c'è gli astici. Aspetta, perché è veramente da farci un libro sopra. Poi è diventato campione italiano pesigallo, poi è stato bravo, ha percorso una carriera in un'azienda nel campo della fotografia industriale, ma a un certo punto il primo amore è riemerso prepotente e quindi lui ora ha la delega da parte di Claudio Bertino di gestire questa bilancia da pesca, vale a dire ad amare. E quando si va da lui bisogna essere un gruppo di almeno 12 persone, ma ne può accogliere anche 60, è una specie di agriturismo ittico molto particolare, si può degustare il pescato del giorno, cioè quello che emerge dalle reti. Teniamo presente che essendo a 200-300 metri dalla foce del Piave, in determinati periodi, quindi molto spesso, c'è della fauna ittica che risale dal mare verso l'interno del fiume. Quindi possiamo veramente sederci a tavola e gustare delle gallinelle con un tortino di cipolla di Tropea, come una volpina marinata semplicemente con olio, pepe e sale, capelonghe, vongole, capesante, tutto il meglio che dà l'Adriatico in quella zona. Proteiferri, e divertente anche il mai dire mais, cioè un fritto con farina di mais dentro il quale si trova un po' di tutto, è un melting pot di pesca tra mare e fiume. Ma quello sulla quale io così volevo richiamare un pochettino l'attenzione dei gastronauti è che in questa zona atipica per il prodotto abbiamo degustato delle ostriche di dimensioni chianine. Addirittura, quindi, sì. Quindi veramente è un posto da gastronauti questo. Sì, è un posto, come dicevo, curioso perché ci sono queste ostriche di dimensioni, secondo me, veramente da Guinness dei primati, le quali magari non avranno un particolare retrogusto di salmastro, però hanno bella ciccia, per quello che mi sono permesso di coniarle un po' alla Cecchini, cioè di tipo chianino come le bistecche. E questa è una storia particolarissima sul quale però Righetto si cuce la bocca, perché lui ha scovato un microambiente in cui queste ostriche crescono. Quello che è divertente è che quel ragazzino che si immergeva a pieni polmoni sui fondali della laguna, adesso diventato più grande e più maturo, ha in una parte di questa bilancia da pesca, cioè nella costruzione, dove lui armeggia di lische e squame, lui ha una serie di 12 mute da sub, perché lui si immerge a raccogliere ostriche durante tutto l'anno, tanto è vero che si racconta di immersioni fatte anche a meno 13. Però per chi è curioso di approfondire l'argomento, ricorderei il sito internet, certo, sul quale si può andare a curiosare di queste cose, e recita www.adamare.it. C'è anche una sezione grafica, fotografica in cui si ha testimonianza di quello che può offrire il pescato del giorno. Si va addirittura da branzini formato jumbo ad anguille pitonate nel senso che hanno delle dimensioni veramente generose. Ma Giancarlo, io ti ringrazio. Ciao. Perché ancora una volta sei un grande gastronauta, perché scopri delle cose impossibili e le sai ricavare in maniera splendida. Bene, torna a fare il gastronauta, lascia altri mestieri. Ciao Giancarlo. Ciao. Bene, e ora andiamo in Basilicata, andiamo dall'amico Michele Brucoli, che l'anno scorso aveva scoperto un ragazzino, un giovanissimo chef che noi addirittura abbiamo premiato. Michele, hai scoperto qualcosa di nuovo? Sì, buongiorno Davide. Antonio Puppio alle Cascate di San Fele, il ristorante è tipicamente un indirizzo valido d'estate perché è possibile fare questo bagno nelle cascate di acqua sorgiva. Però volevo rispondere alla provocazione sul pescaturismo con un indirizzo di Maratea, dove abbiamo il decano dei pescatori di Maratea, zio Pino, che può ospitare gruppi di 5-6 persone sul suo piccolo peschereccio di, da pesca, appunto, e quindi ci può portare in piccoli gruppi, ci fa assistere alla pesca del pesce azzurro, dei calamari, triglie, se siamo fortunati anche scampi e aragoste, e poi li elabora direttamente sul peschereccio con l'aiuto di uno chef professionista. Beh, diciamo anche che Maratea è un posto splendido, quindi diciamo che vale un viaggio. Certo, poi sì. La Basilicata ha i due affacci sullo Ionio e sul Tirreno, Maratea appunto l'affaccio sul Tirreno, e poi sempre parlando di pesca abbiamo anche a Policoro un indirizzo dove la ristorante Rosa dei Venti, dove a gestione familiare è una pescheria con abbinato il ristorante, quindi questo è un tipico dietro il banco, come tu lo definiresti. Spero che tu me lo segnali questo qui. Certo, quest'anno lo segnaliamo. E Tonino, il pescatore, la moglie va a pesca, la moglie Maria Rosaria poi elabora con sapienza questo pesce appena pescato. Abbiamo il gambero dello Ionio che si trova solo in questa, il gambero del Metapontino lo troviamo solo in questa zona. Si può abbinare magari a una visita dal 6 al 10 agosto a Policoro al Blues in Town, che è questo festival internazionale di musica. Senti Michele, mi dai un vino basilisco, un vino lucano che ti ha particolarmente così impressionato? Diciamo che in Basilicata abbiamo essenzialmente il Rossi, l'Aglianico del Vulture, il Primitivo, che diciamo si abbinano a dei pasti particolarmente strutturati, quindi in estate ci vorrebbe un bianco, però non vorrei fare nomi commerciali, scusami, va bene. Incompatibilità su questo. Va bene, grazie. Volevo ancora segnalarti un indirizzo a Matera. Sì. Dimmi. Allora, a Matera abbiamo un nuovo ristorante che in un carcere del 1800 l'hanno chiamato il Gattabuia, che prevede per quest'estate delle serate calici di stelle e serate bollicine. E poi, infine, per completare il quadro, a Potenza abbiamo il nuovo ristorante di Francesco Rizzuti, Frank Rizzuti, che reduce dalla stella Michelin con il dattilo, in Calabria, dall'antica osteria Marconi, ha fondato questo ristorante cucina del sud, con coinvolgendo chef del sud Italia. Bene, quindi quest'anno avremo tante sorprese nella guida dei ristoranti del sole anche dalla Basilicata. E ora andiamo, ciao Michele, buon lavoro. Ciao, ora andiamo da Stefano Salis, che è una penna importante del domenicale del Sole 24 Ore, ma Stefano è un grande gastronauta. Buongiorno Stefano. Ciao Davide, come stai? Bene. Cosa hai scoperto? Perché tu vai sempre in giro per l'Italia, ogni tanto mi segnali veramente delle cose davvero molto interessanti. Esatto, senti, adesso in questo momento mi trovo a Roma, ovviamente, però ci sono vari punti che vorrei segnalare. Se mi permetti, io partirei dalla mia Sardegna. Però. Certo, come no? Allora, io farei una selezione, diciamo, di posti noti, due o tre nomi che non possono mancare per chi va in Sardegna, e io direi se uno ci capita ci deve fare scalo, e poi qualche posto un po' più riservato magari in zone italiane. Bene. Allora, ti direi a Cagliari senz'altro puntare di nuovo sul ristorante Lo Scoglio. Il ristorante Lo Scoglio, io l'ho segnalato nella guida, è penso uno dei posti pied en l'eau più belli d'Italia, perché sei letteralmente con la terrazza affacciato e sporto sul mare, ti vedi i pescetti che guizzano proprio sotto gli occhi, e siamo in un posto veramente incantato, Calamosca. Ci si arriva con una stradina sterrata, non bisogna farsi spaventare dalle condizioni della strada, ma proseguire secondo le indicazioni stradali. Una volta arrivati ti fai il bagno al mare, prenoti, sali a mangiare e ti aspettano uno spaghetto alla ragosta che secondo me non ha confronti, direi, in tutta Italia. Bene, poi? Poi, un altro indirizzo che consiglio, se dovesse capitare a 100 km da Cagliari, Isola di Sant'Antioco, ristorante secondo me in continua evoluzione, con uno chef molto bravo, molto attento ai sapori locali, ma capace di reinventarli, Achille, in Via Nazionale, che è il centro del paese, ristorante e albergo, conduzione familiare, si può stare tranquillamente. Achille è bravissimo nella selezione della qualità del pesce, soprattutto posto di mare, quindi si va la mattina presto a prendere il pesce appena arrivato e lo cucina seguendo le indicazioni del mercato, quindi il menù c'è ma ovviamente variabile, aggiornato ogni giorno. Si va nel nord della Sardegna e qui segnalo un posto che a mio giudizio è il ristorante più importante e più buono della Sardegna, tu sei un appassionato, ed è ovviamente il ristorante Gallura di Olbia. Brava Rita. Rita, non spendo altre parole perché mi sembra che sia abbastanza noto, quindi non c'è bisogno. Andiamo fuori, una segnalazione fuori Sardegna. Guarda, sono stato molto colpito in una recente visita a Ischia, in un posto stranissimo che è un parco termale. Ischia ha una eccellenza gastronomica nello chef Nino Di Costanzo, ristorante Mosaico, 2 stelle Michelin, ne merita anche 3, ma questo ristorantino che sta in un posto dove la gente va a fare le terme, va al mare, siamo al mare, è un parco termale che si chiama Negombo, questo ristorante si chiama La Casa Colonica, a pranzo non fa neanche la pasta, fa quasi solo piatti freddi e la sera ha un menù un pochino più importante. La cosa veramente significativa è che la materia prima è di una qualità eccezionale. Mangiare semplicemente dei pomodori cipolla con un po' di basilico fresco è veramente un'esperienza. E Jack, come si chiama il proprietario, è una persona squisita che è in grado di consigliarvi molto bene. Grazie Stefano di questo viaggio in Sardegna e poi di questa tappa a Ischia. Avete sentito parlare di Pied & Loup? Ebbene, la prossima guida dei ristoranti del Sole 24 Ore avrà questo, diciamo, questo nuovo simbolo. Il gastronauta. Continuiamo questo ultimo tratto di questo grande viaggio nell'Italia, la scoperta di posti giusti, di posti consigliati dai gastronauti. I gastronauti sono coloro che danno vita con me alla guida dei ristoranti del Sole 24 Ore. Lo ripeto, sono solo questi gastronauti, gli altri sono abusivamente dei gastronauti, come in varie parti d'Italia vedo anche dei locali chiamati con questo nome. È abusivo questo nome, perché il gastronauta è solamente qui ed è solamente coloro che collaborano appunto alla guida dei ristoranti del Sole 24 Ore. E allora continuiamo questo viaggio. La cosa che mi piace segnalare, visto se avete ascoltato fino ad ora, e io spero che molti automobilisti magari siano stati allietati così da questo racconto e dalla segnalazione di questi posti, è che quasi tutti hanno segnalato posti veramente, come posso dire, semplici, dove c'è cucina semplice. Nessuno ha segnalato particolari ristoranti così famosi o chef che appaiono in televisione o d'altro, e questo secondo me è molto ma molto significativo. Ma vediamo ora, diciamo, siamo agli ultimi gastronauti appunto di questa tornata, se anche questi sono, diciamo, su questa linea. Allora cominciamo da Severino Salvemini. Buongiorno Seve. Buongiorno Davide. Allora, cos'è il tuo nome segreto nel cestino, nel cappello? Il mio nome segreto è poco esotico, nel senso che io voglio segnalare qualcosa di Milano. Ah, fantastico, perché è giusto. La scelta di Milano d'estate, che è sempre bellissima per chi ci risiede, per chi arriva da fuori, un nuovo ristorante appena aperto. Ok, allora, pronto. Allora, il nome è Vicky's, e il cuoco è Vicky Prian, che è di origine cingalesi, personaggio abbastanza curioso perché moglie giapponese, 10 anni al Four Seasons di Bali, passaggio in Francia e poi sous chef di Nobu e Zero a Milano. Beh, ma la cosa ancora più divertente è che è una persona che ha un dottorato di ricerca in criminologia a Colombo, in Sri Lanka, e ha scoperto la cucina perché, chiacchierando con i condannati a morte volevano la migliore pietanza prima appunto della loro destinazione. Cosa si mangia di particolare in questo posto? Ovviamente una cucina, un melting pot, immagino. Sì, melting pot, quindi sapori orientali, scuola francese, ricette thailandesi, però con condimenti mediterranei, quindi con cose anche molto italiane. Quindi quella che tu a volte chiami con un calembour fusion e confusion, però in questo caso molto raffinata. Beh, io volevo dire anche una cosa a favore di Severino Salvemini, che ha mandato la scheda di questo ristorante molto prima che cominciassero a uscire le recensioni a Milano. Quindi devo dire che sei stato veramente un talent scout straordinario. Un po' di intuito. Poi, ecco, un piatto in particolare che ti ha colpito. Ma quello che, diciamo, mi ha colpito di più è, lui tratta ovviamente, come si pensa, pesce crudo, quindi fa un carpaccio che chiama carpaccio dei cinque continenti, dove schiera gambero, tonno, ricciola, salmone, branzino, però con delle spezie variopinte, spesso irriconoscibili ai palati comuni. Bene, allora lo ripetiamo, ripeti il nome? Vicky's, in via San Calogero 3, vicino alle colonne San Lorenzo a Milano. Bene, grazie Severino Salvemini, grazie. Continuiamo questo viaggio, ora andiamo da un noto architetto, andiamo da Tiziano Budafieri. Buongiorno Tiziano. Ciao Davide, come va? Bene, tu dove ci porti Tiziano? Allora, vi porto, stasera intanto vado nel ristorante che il nostro amico ha appena nominato, è curiosa questa cosa perché è veramente squisito a Milano, vi porto nelle Marche, in un meraviglioso paesino che si chiama Torre di Palme, che è sulla costa ma è in alto, è una vista magnifica sull'Adriatico, su Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, eccetera, è una terrazza, questo paesino di pietra veramente molto spettacolare. Lì c'è una trattoria, ancora, sempre, un ristorante, ma molto semplice, un ristorante abruzzese che si chiama Lufo Carò ed è tenuto anche qui da una persona che ha una storia, è odontotecnica, Patrizia Corradetti, e sua madre che ha 80 anni, che fa la pasta. È un posto magnifico, ha una terrazza proprio di pietra in cui si vede tutto l'Adriatico, si mangia fuori, è un sogno. Ed è un posto meraviglioso, fa della carne molto semplice con della scottona di pascolo meravigliosa, fa le migliori olive alla scolana, io non le mangio mai perché è un piatto molto banalizzato, le migliori olive alla scolana che io conosca, usa un prosciutto che è una culatta di prosciutto di questo Marco Mezzaluna che magari tu conosci, Davide, che è un locale, cercano di fare dei piatti usando ingredienti local, come si deve fare oggi, i migliori probabilmente cappelletti in brodo, probabilmente forse solo al di fuori del pescatore a Canneto sull'Oglio, che abbia microscopici, che fa con la culatta di prosciutto dentro, che fa la mamma di 80 anni. Beh, io devo dire che in agosto, secondo me, mangiare i cappelletti in brodo è fantastico. Io lo ritengo proprio un rito domenicale della domenica, mangiare magari il giorno di Ferragosto, io credo che sia una cosa straordinaria. Non so tu come la pensi. Io trovo, ma io l'ho mangiati anche 10 giorni fa, vado spesso giù per lavoro, è il distretto delle scarpe lì. E questo è un posto magnifico, è un Bene. Posto poi fuori dalle grandi rotte della costa, è una cosa che va veramente provata. Tiziano, tu frequenti molto spesso la Bretagna, e visto che è d'estate, visto che siamo in agosto, ci dai una segnalazione? Beh, questo vengo ieri da lì perché talmente amo questo posto che alla fine ci lavoro anche con amici. C'è un consiglio a chiunque di andare a vedere questo posto, un piccolo paesino nella Bretagna del Sud, nella penisola di Quiberon, che è un posto magnifico, che è una specie di istmo che ha da un lato la laguna e da un lato l'oceano Atlantico, meraviglioso. C'è questo paesino che si chiama Port-Yvy, dove c'è un piccolo albergo, il nome è stupendo, si chiama Le Petit Hôtel du Grand Large, il piccolo albergo del Grand Largo, ha 6 camere ed è tenuto da una coppia con figli ex pubblicitari tutte e due, lui appassionatissimo di cucina ed è un ristorante di pesce naturalmente perché lì la materia prima è incredibile, che in 4 anni questo amico ha preso una stella Michelin con un ristorante di una semplicità disarmante, un po' nella linea dei nuovi, come dire, assemblatori, li chiamo io, il Noma, certo. È un po' su questa linea qua, diciamo una cucina con una leggera ricerca ma con moltissima attenzione alla materia prima, un ristorante che costa poco, davanti al porto, davanti all'oceano, ed è un sogno anche trovare una camera perché è complicatissimo, perché con 6 camere è... Bene. Bene, sei camere, immagino che nei periodi così di punta sia molto difficile, però magari cari gastronauti in viaggio, provateci, probabilmente troverete posto prima o poi. Bene, grazie a Tiziano Vudafieri di averci segnalato queste due chicche. Bene, dicevo, il viaggio è stato un viaggio che è partito dalla Grecia addirittura ed è arrivato in Bretagna, quindi oltre a tutta l'Italia che abbiamo così setacciato, sicuramente vi abbiamo dato anche delle segnalazioni fuori per chi la Grecia è sempre battuta, così la Bretagna. Devo aggiungere che magari, visto che siete in viaggio, che è sabato, probabilmente anche un sabato di traffico intensissimo, non avrete potuto prendere note. Allora, sapete, questa trasmissione viene data in replica domani alle 18. Quindi, con tutta tranquillità, preparate penna, preparate un taccuino e vi potete prendere questi indirizzi. Non solo abbiamo sentito di locali e di ristoranti, ma anche di luoghi bellissimi. Devo dire che il luogo che ha descritto Manfredi in Calabria veramente mi ha affascinato e quasi mi ha convinto ad andare. Prima o poi dovrò andare, perché è veramente un posto così di grande fascino, oltre quello che si mangia. Mi piace anche fare un'annotazione, l'ho già detto ma lo rifaccio molto volentieri. Come avrete sentito, i posti che sono stati così descritti, eccetto mi sembra uno che è stato detto che era uno stellato, sono posti molto semplici, che i nostri così gastronauti per una volta hanno tirato fuori dal loro cappello. Però questi luoghi li troverete nella guida dei ristoranti del Sole 24 Ore quando uscirà a novembre, e quindi sicuramente avrete modo poi di avere tutte le descrizioni e tutti questi posti. E devo dire che anche dei vini sono venuti fuori, dei vini interessanti, quei pochi che sono stati così offerti, ma tenetene conto, perché vi posso garantire che questi personaggi che sono intervenuti, molti di questi sono molto esperti sui vini. Un'ultima cosa, abbiamo sentito parlare di locali con i piedi nell'acqua. E piedi nell'acqua cosa intendiamo? Intendiamo quei locali dove si può mangiare, sicuramente non esattamente coi piedi nell'acqua, ma si può mangiare su una spiaggia, si può mangiare magari a 2 metri dall'acqua o sopra l'acqua. Questo è importante perché, come dicevo, quest'anno la guida dei ristoranti del Sole 24 Ore darà questo simbolo a quei ristoranti dove si potrà mangiare appunto a pochi metri o addirittura, diciamo, a pochi centimetri in molti casi dall'acqua, che è un modo molto piacevole per passare l'estate. Bene, io non vi do segnalazioni, ve le darò prossimamente, perché anch'io ho i miei posti segreti che poi vi descriverò, e quindi magari lo farò in altra occasione. Io vi do appuntamento ovviamente domani con il riposo del guerriero alle 11:15, oltre alla trasmissione che andrà in replica alle 18, appunto sempre di domani domenica, e ogni giorno con la pillola alle 11:05 e alle 23:05. Vi auguro appunto di sperimentare questi posti, e se qualcuno dovrà fare delle rimostranze, info@gastronauta.it, oppure di segnalare anche dei nuovi posti. Un buonissimo weekend dal vostro gastronauta.